nuovamente in diretta, ricca puntata in mostra, protagonista Tina Modotti in una sede espositiva che seguiamo da tempo, dalla nascita della rubrica Regola d'Arte dei 103.1. Nasce a Udine il 17 agosto 1896, scompare a Città del Messico il 5 gennaio del 1942. Tina Modotti, intellettuale, fotografa, attivista, comunista, attrice italiana, anche scrittrice, un'artista polivalente, impegnata, che più volte è stata considerata come figura importante, certo, ma mai nella specificità, in maniera completa, per quanto riguarda l'opera della fotografia, che ha avuto veramente un'importanza non indifferente. Grazie a Riccardo Costantini, curatore dell'esposizione, vedremo alcune peculiarità nella modalità di lavoro e dell'ispirazione di Tina Modotti, alcune note biografiche, considerata una delle più grandi fotografe dell'inizio del XX secolo, figura impegnata politicamente, vicino alla sofferenza delle operaie e degli operai, internazionalista, ha viaggiato a volte per necessità, a volte per seguire rapporti sentimentali, per lo più per impegno politico. Per quanto riguarda i primi anni in famiglia disagiata nella sua Udine, nella periferia della città friulana, si ritrova in una famiglia numerosa, molto dotata sin dai primi anni di scuola, con grande talento, porta avanti i suoi studi, ma le necessità economiche la portano a lavorare in una fabbrica tessile. La famiglia deve trasferirsi in Austria perché, come ho detto, la povertà della famiglia purtroppo ha costretto a degli spostamenti per motivi di lavoro. Arriva a conoscere, grazie allo zio, un lontano parente che aveva uno studio fotografico, la passione per la fotografia, e da lì quindi si parte e si lavora, pur mantenendo queste radici umilissime, fino ad arrivare all'emigrazione negli Stati Uniti d'America, dove riprenderà il lavoro di operaia, ma allo stesso tempo avrà possibilità di conoscere altri fotografi e di poter sviluppare la sua presa di coscienza, e oltretutto di poter divulgare e apprendere dalla sua ispirazione stessa, dalla sua volontà e il suo desiderio, tutto ciò che è un'espressione fotografica. In questo ambito, appunto, anche nella musica, ne ha dato un riconoscimento un amico di Radio Città Fujiko, che è Francesco Bearzatti, che abbiamo conosciuto con Jazz Live ed altri format, e un lavoro di qualche anno fa con una formazione che lui stesso ha chiamato i Tinissima Quartet, dedicato a Tina Modotti. Iniziamo allora con una piccola clip audio che Francesco, ho contattato qualche giorno fa così di sorpresa, ha dato disponibilità per parlarci della genesi di questa biografia in musica, per cui, seppur in maniera atipica ma molto attinente, sentiamo un po' da Francesco come è nato questo lavoro con i Tinissima Quartet dedicato a Tina Modotti. Grazie a te, buon pomeriggio. È un po' improvvisata questa conversazione, però è una colonna sonora ideale per questa esposizione che prevede una biografica su Tina Modotti. Tu sei stato autore di un lavoro su Tina Modotti, ci puoi parlare della genesi di questo lavoro? Ma la genesi, guarda, nonostante io sia friulano di origine, ho scoperto Tina Modotti nel lontano 2001, quando già abitavo da un anno a Parigi. Ho scoperto attraverso un libro di fotografie. Da lì ho cominciato a leggere la sua vita e mi sono completamente innamorato di lei. Ho fatto delle ricerche, volevo scrivere un pezzo che riguardava il Messico, ma una volta composto il pezzo ho sentito che non bastava, che dovevo dedicarle un album intero, quindi un concept album. Per cui ho continuato nella scrittura. Ho poi convocato un gruppo nuovo che prima non avevo, che è composto da Zeno De Rossi alla batteria, Danilo Gallo al contrabbasso e Giovanni Falcione alla tromba. Ho chiamato il gruppo Tinissima, che è l'appellativo che usava sua madre per Tina Modotti, E registrato il disco ha avuto un moltissimo successo, abbiamo fatto praticamente tantissimi anni di tour e siamo riusciti a portarlo in tutta Europa, negli Stati Uniti, in tantissimi paesi del mondo, insomma è stato un bellissimo viaggio. L'altro giorno per l'apertura, dopo tanti anni, perché questo lavoro è uscito nel 2008, l'altro giorno mi è stato riproposto, cioè mi è stato richiesto di aprire la mostra con questo concerto ed è stato veramente bellissimo riprovare quelle emozioni fortissime che abbiamo sempre provato eseguendo questo lavoro. Io ti ringrazio tantissimo per questa piccola clip, ma che è di grande valore per corredare la presentazione di questa esposizione, e ti auguro una buonissima giornata. Grazie Francesco. Anche a te, grazie, a presto, ciao, ciao ciao. Saxofoni, Francesco Berzatti, saxofonista dotato di un talento, di un timbro fortissimo, qua dimostra anche una capacità di narrazione visiva, appunto dedicata a Tina Modotti, l'opera, l'apertura a Rovigo a Palazzo Roverella, in intersezione tra arte visiva, la fotografia e la musica, giustamente in maniera meritoria affidata al Tinissima Quartet. Nelle mani di Dio. È il saluto friulano con una contrazione, cioè mandi. Mi permetto di aggiungere il mio amato Friuli, una terra fantastica, la luce del Friuli. Il brano che stiamo ascoltando di Francesco, appunto, è Mandi Friul. Ciao Friuli. Nel giugno del 1913 Tina Modotti lasciò l'Italia, nonché l'impiego che ricopriva presso l'azienda tessile, per raggiungere il padre a San Francisco in California, dove trova subito lavoro in un'altra industria del tessile. Ma in quel periodo lei si avvicinò anche alla recitazione, figurando, seppur in rappresentazioni amatoriali, risvolti essenzialmente al pubblico, dove i protagonisti erano gli emarginati, i migranti italiani dell'epoca. interpreta Goldoni, interpreta Pirandello e nel 1918 si sposa con il pittore Rubò e poi ha trovato con lui la possibilità di viaggiare. I due si trasferirono poi a Los Angeles per proseguire una carriera nel mondo del cinema. Iniziamo allora questa frazionata conversazione con Riccardo Costantini, curatore dell'esposizione a Palazzo Roverella a Rovigo, per conoscere poi l'opera nella specificità dell'immagine fotografica di Tina Modotti. Estremamente significativi, in un tempo ridotto e direi una varietà di stili, mantenendo sempre una sua coerenza. Tina Modotti è sempre riconoscibile come Tina Modotti, nonostante abbiamo visto già, se pensiamo al contrasto fra le cose formali, a cose di istantanea fatte in strada, è sempre la stessa fotografa. Questo nel codice della storia dell'arte non è un problema facile, si pensa sempre che un autore debba appartenere a se stesso con una coerenza stilistica. In realtà lei ha un'evoluzione abbastanza rapida, perché fotografa per solo praticamente 6 anni, ma riesce a variare tutti gli stili anche con una necessità, e questa è la cosa. Lei ha un bisogno comunicativo a variare e ad assecondare quindi questa necessità comunicativa. Una definizione molto bella è quella che Tina Modotti sia una matrioska, una serie di contenitori che contengono sempre se stessa, dove al centro di tutto c'è la sua fotografia, una cosa che l'ha resa più completa dal punto di vista artistico. Ricordiamoci che è stata di tutto, perché attrice, ha scritto poesia, è stata fotografa, è stata attivista e combattente, è stata grafica, ci sono anche molti lavori grafici fatti da lei, le riviste per cui lavora spessissimo hanno impaginazione, il logo delle Scuolas Libres di Agricoltura è fatto da Tina Modotti. Quindi talmente eclettica, però io penso che forse proprio la summa della sua opera, il vero centro di questa matrioska, sia la sua fotografia. Quante opere troviamo in mostra? Le opere sono 300 ed è quindi la mostra più grande mai realizzata su Tina Modotti. Il percorso in mostra? Il percorso è articolato ovviamente in vari momenti e cerca di ricostruire l'arte di Tina Modotti, la sua fascinazione per le donne, le madri e i bambini, quindi i temi principali, i contrasti del Messico, una grande celebrazione della sua mostra del 1929, la sua unica mostra effettivamente voluta da lei, i temi delle masse, delle politiche, della politica, per arrivare poi agli ultimi scatti. Rosso del vino, così prezioso da lasciarlo posare con delicatezza, perché possa diventare ancora più prezioso. Da attrice il suo esordio nel 1920 con il film Pelle di Tigre, il primo dei tre film hollywoodiani da lei interpretati, ricevette una grande acclamazione dal pubblico e dalla critica. Il compagno, il suo primo amore, l'artista, il pittore, le comunica la sua intenzione di trasferirsi in Messico alla fine dell'ultima pellicola da lei girata. Passato un po' di tempo, Tina cerca di raggiungerlo insieme a un amico dell'artista stesso, Weston. Su invito di Robot arriva a Città del Messico troppo tardi, in quanto il compagno era morto da giorni a causa di un fortissimo attacco febbrile, probabile conseguenza dell'epidemia di vaiolo, e quindi in Messico ritornerà nel 1923 assieme a Weston e ai figli di quest'ultimo, desideroso di partire per lasciarsi alle spalle tutto e rifarsi una vita nel paese latinoamericano. E da qui parte l'esperienza messicana, l'aderenza al Partito Comunista Messicano, il suo lavoro che troverà sviluppo in ambito fotografico e appunto dei percorsi di questa intellettuale, donna, comunista, figura importantissima e non solo per la fotografia. Incentrare con 300 opere questa realtà, oltre che un impegno meritevole di lode, è anche un lavoro da non perdere per quanto riguarda l'espansione artistica e l'ispirazione di Tina Modotti. Sarà fino al 28 gennaio 2024 a Palazzo Roverella a Rovigo. Stiamo ascoltando, seguendo appunto questi percorsi, Continuissima Quartet e Francesco Berzati. Prima un aspetto più evocativo, così melodico, con Mandy Friul. Ora Stop and Go, questa partenza fino in America, negli Stati Uniti d'America, e il brano si intitola appunto America. Una telefonata al 333 180 9494. Vi ricordo che attraverso questo numero comunica il Breakfast Club solo attraverso WhatsApp, SMS e Telegram, quindi invito l'ascoltatrice o l'ascoltatore per comunicazioni di trovare spazio su queste modalità, e grazie comunque per il tentativo. Le sue origini? Le origini, fotografa udinese, 1896, emigrante, di famiglia semplice, terza di sei fratelli, emigrante come molti italiani dell'epoca, che arriva a Ellis Island con una nave da transatlantica che salpa da Genova e che nel giro di pochissimi anni diventa attrice teatrale, cinematografica, frequentatrice di circoli artistici e culturali, per cui un percorso assolutamente di eccellenza. Qui avete gli scatti finali. Questa, guardate il volto di Tina Modotti segnato, è il 1930, è stata appena catturata dalla polizia perché è stata accusata di aver attentato alla vita del presidente messicano. E sarà un pretesto ovviamente per esiliarla. Lei già scrive poco prima a Weston: temo che la mia presenza in questo paese volge al termine, sarò costretta ad andarmene. E per associazione mettiamo accanto le foto di un anno prima, quando le viene ucciso Meglia al suo fianco, non è Meglia ma è un poliziotto che ricostruisce la dinamica dell'omicidio, lei è costretta anche a subire questo rito per dimostrare che non è complice nell'omicidio del suo amato. In entrambe le situazioni subisce una gogna mediatica fortissima, e viene accusata ovviamente di essere donna di facili costumi e per questo viene attaccata e sarà qualcosa che la minerà nell'animo. Queste ultime invece sono le foto, le pochissime foto esistenti scattate a Berlino. Quando è a Berlino non trova la carta giusta, ha problemi di ingranditore, non ha una camera oscura, va ospite di un'altra fotografa che si chiama Lotte Jacobi, che avrà poi una carriera autonoma molto interessante, e come vedrete cambia radicalmente soggetto. Entrano delle figure borghesi, molto più in carne, non sono più le donne teuane, filanti, magre per necessità, forse per intensità di vita, insomma. A Berlino soffre la tristezza, dice la gente è triste, va di fretta, ma soprattutto e più di tutto le manca la luce del Messico. Una ragione sia umana, la luce del Messico che è vita, ma soprattutto tecnica. Non posso stampare, questa maledetta luce di Berlino non mi consente di fare le esposizioni come le facevo in Messico. Viene scelta poi anche come fotografa ufficiale del movimento muralista messicano per immortalare i lavori di Diego Rivera. Molte delle foto dedicate ai fiori sono state appunto scattate in quel periodo. Nel 29, esattamente il 10 gennaio, assiste alla morte di Julio Antonio Mella, come ha anticipato il curatore Riccardo Costantini, suo compagno dopo la relazione con Weston da pochi mesi. L'omicidio da parte di un suo oppositore politico, lei ne viene implicata pur essendo completamente innocente. Ne segue una campagna scandalistica di cui diviene vittima, una gogna mediatica appunto. Questo brano ovviamente lo sentite con questo sapor di mariachi di Francesco Berzatti, si intitola Mexico. Thank you. 1929 una sua mostra venne pubblicizzata come la prima mostra fotografica rivoluzionaria in Messico. Fu il suo apice della carriera. All'incirca un anno dopo, però, fu costretta a lasciare la macchina fotografica dopo l'espulsione dal Messico e, a parte poche eccezioni, non scattò più fotografie nei 12 anni che le restarono da vivere. E poi il lavoro per il Comintern. Infatti concluderemo con un brano di Berdatti della Tinissima Quartet intitolato Russia. Per cui abbandona la fotografia. Questi sono, fra l'altro, l'ultimo scatto praticamente mai visto, anche questo, sono scatti di documentazione ci mostrano Tino Badotti documentare ancora una volta lotte ovviamente politiche, quindi sono movimenti all'interno della Repubblica di Weimar che, come sapete, ci si prepara all'avvento del nazismo, per cui è particolarmente importante come documentazione. Transizione rapida, dalla fine dei suoi scatti, questa signora che vedete qua di spalle sulla destra è Tino Modotti nell'atto di promuovere AIZ, Arbeiter Illustrierte Zeitung, il giornale dei lavoratori, proselitismo, vendita di abbonamenti. Pensate alla devozione alla causa di quest'artista che, abbandonata la fotografia, si ritrova per strada con la rivista di cui ha fatto molte copertine come fotografa. Convinta quindi che l'adesione, la partecipazione ai temi dell'internazionale socialista sia fondamentale. Oppure nella guerra di Spagna, dove ricordiamo non fu combattente, ma fu comunque segnata come arruolata, megafono avvicinato alla bocca per poter di nuovo promuovere la causa del Soccorso Rosso Internazionale. Sparisce mano a mano, diventa sempre più piccola ed eccola qua che lava i panni, seconda da sinistra, su una testimonianza orale che abbiamo di una persona che ti orna, che scattò questa foto. Dice Tino Modotti è la seconda da sinistra in questa fotografia. Ovviamente a questa distanza non ci è dato riconoscerla, però teniamo la testimonianza orale e vediamo la Tino Modotti che in maniera estremamente umile lava i panni in una fontana insieme alle persone che sono coinvolte in quel momento con la guerra di Spagna. Del Tinissima Quartet che concludiamo questa playlist. Berdatti poi con la sua formazione porterà altre biografie e monografie in musica, una dedicata a Malcolm X, bellissima. Tina Modotti viene esiliata dal Messico, sua patria d'adozione, per un periodo, come avete sentito, Berlino, viaggia in giro per l'Europa e poi si stabilì con il pittore Pablo Higgins a Mosca. Ripara in Unione Sovietica, dove viene cooptata dalla polizia segreta sovietica per varie missioni, si dice, di spionaggio in Francia e altri paesi dell'Europa centro-orientale a sostegno della rivoluzione mondiale. E appunto operava come volontaria, come infermiera per il Soccorso Rosso Internazionale. Guglielmo Dotti muore nella sua patria d'adozione a Città del Messico il 5 gennaio del 1942. Ci sono circostanze sospette su questo decesso e dopo aver avuto la notizia della sua morte, l'artista Diego Rivera affermò che fosse stata assassinata. Anche qua sulla morte di Tino Madotti si è detto molto, moltissimo, forse troppo. La decisione è quindi di lasciare solamente un accenno speriamo sobrio, in qualche modo anche dolce. Vedete il rapporto con lo scatto di Julio Antonio Meia morto che c'è di sopra. Questa di nuovo è probabilmente come sopra la veglia funebre. Di Meia non sappiamo se sia la morgue o se sia la veglia funebre. Anche qua Tino Madotti sembra dormire, ci abbandona in questo lungo viaggio, la sua bara viene sepolta al Panteon de los Dolores, il cimitero borghese, dove stanno i grandi della storia messicana, dove tuttora appunto è sepolta, e ci lascia in questo viaggio senza che noi ci facciamo molte domande sugli ultimi anni della sua vita, su quello che abbia fatto, perché ci siamo concentrati ovviamente sulla produzione fotografica. Come si avvicina all'impegno politico Tina Modotti? È un anno chiave, che è il 1927, quando lei aderisce al Partito Comunista. Molto fa la sua relazione sia intellettuale che sentimentale con Javier Guerrero, muralista messicano, indio tarahumara, quindi anche attento alle, ovviamente alle tematiche dell'indigenismo e del riscatto indigeno, ma è nella sua natura da sempre fare battaglie sociali. Fin dal 1915 raccoglie fondi per i poveri, è proprio la sua caratteristica. Così intensa, ho voluto chiudere con l'affermazione del curatore, che ringrazio, Riccardo Costantini, la caratteristica di Tina Modotti di essere al fianco degli emarginati, degli ultimi, con una forte ideologia comunista. Fino al 28 gennaio 2024, una grande mostra in tutti i sensi in questo caso, una perché conoscere Tina Modotti al di là dell'aspetto eterogeneo, ma incentrarsi sulla specificità della fotografia, 300 immagini, e non solo immagini, anche scritti. L'opera appunto semplicemente si intitola questa monografia Palazzo Roverella, che sarà fino al 28 gennaio 2024. È la mostra della rubrica Regola d'arte dei 103.1 per oggi. Ritorniamo fra poco per parlare di quella che invece sarà l'imminente apertura per la Notte Europea dei Ricercatori assieme al settore Musei Civici di Bologna. A tra poco quindi, un buon ascolto, un buon giovedì, e noi continuiamo a fare colazione con il Breakfast Club. A breve.